del tessuto economico di un territorio che non sia lottizzato e non sia finalizzato ad ottenere il consenso elettorale. E, no, quando dicono scappa niente, nessuno si faccia illusioni, cioè anche i call center da 3 mesi appartengono a questo circuito. Questa mi è successa fresca fresca di una tizia che ha un negozio di mattoni, roba da costruzione eccetera, e sta benissimo, la quale tempo fa mi diceva: io voto per Cuffaro perché ha dato un call center da 3 mesi a mia figlia, la sta facendo lavorare. Ma come, tu con tutti i milioni che hai, può essere, è possibile mai che ti vai a preoccupare di fare lavorare tua figlia in un call center? Però ormai il meccanismo è questo: io te lo chiedo, tu me lo dai e tu, e così il sistema si autorigenera meccanicamente. Cioè non c'è bisogno di illudersi che questo sistema possa cadere, ormai ha trovato tutti gli anticorpi possibili. Allora, da questo aspetto le mani sulla città ci sono, e ci sono ovviamente da parte politica, da parte economica che con questa parte politica convive, da quella che voi avete chiamato nel vostro manifesto borghesia mafiosa, usando una frase attribuita ad Umberto Santino, ma che in realtà appartiene a Mario Mineo, che fu uno dei padri della Costituzione siciliana. Per primo lui intuì che la borghesia siciliana, non tutta, ha forti caratteristiche e venature mafiose, e necessariamente sopravvive solo se riesce a coordinarsi con la mafia. Il tessuto sociale in cui viviamo è assolutamente degradato, quindi io stavo dando oggi, perché mi avete fatto venire questa curiosità, un'occhiata un po' più chiara ai risultati delle ultime regionali, che a occhio e croce mi davano a Cuffaro il 53,1% e a Rita Borsellino il 41,6%. Il 5,3 invece l'ottenne Sebastiano Musumeci, detto Nello, che era il camerata di Catania, che si candidò. E quindi il 53 e il 41. Dovunque vado mi dicono: ma com'è possibile che si possa scegliere una persona come Cuffaro rispetto a una persona con la faccia pulita come poteva essere Borsellino, e che rappresentava un'alternativa seriamente reale a questo sistema? E la spiegazione l'ho già dato prima: è possibile perché Cuffaro è un professionista, perché Cuffaro ha le macchine alle mani sulla città, è un professionista stile vecchia Democrazia Cristiana, quando tutto era sotto controllo e tutto serviva per far voti. Lui sa fare benissimo questo. Dicevo, dico Cuffaro come potrei dire qualsiasi altra persona, insomma, sia chiaro, cioè qualsiasi altra persona che sia esponente di questo meccanismo, che se volete proprio visualizzarlo potete immaginare, tipo una volta c'era il Soviet dell'Unione Sovietica, Brezhnev, Andropov, tutti i vecchi mise da un capo, e sono quasi tutti vecchi, i quali erano i padroni del sistema. Tra l'altro il risultato che vi ho dato cambia nel momento in cui non si tratta di votare esclusivamente per il candidato, ma per i partiti politici. I partiti politici di centrodestra hanno avuto in queste regionali il 61,5 e quelle di centrosinistra il 36,1. Quindi il rapporto di forza, ogni volta che io mi trovo a Bologna o in paesi in cui esiste, chiamiamola così, una forza un po' diversa, dico proprio che qua mi sento assolutamente un disadattato, e quindi il rapporto di forza, vi ho detto che sarebbe da 60 a 40, ma già questo è proprio ottimistico. Ci sono dei paesi, tipo Partinico, che citavo prima, Terrasini, eccetera, in cui il rapporto di forza è di 80 a 20, cioè 80 di centrodestra, 20 di centrosinistra. Ci si chiederà, ma come ci siamo ridotti così e come è potuto succedere? E questo è un discorso pure molto lungo, che possiamo casomai sviluppare dopo. Quindi di fatto con questo tipo di rapporti di forza vi rendete conto come qualsiasi tentativo di di sviluppare lotte sociali sia, come si dice, considerato tipo parla e tu solo ti senti, cioè sei considerato o destinato a sbattere la testa al muro. Perché? Perché proprio le persone su cui dovresti contare sanno benissimo che se non si associano a questo sistema di potere rimarranno assolutamente ai margini e fuori. È terribile, lo dico, è terribile soprattutto per voi che siete proprio in quella soglia. A me questa cosa capita spesso di dire ai ragazzi che dobbiamo crearlo, fondarlo, un sistema nuovo, perché così non si può andare avanti. E tutti mi dicono che sono d'accordo, tutti mi dicono che di mafia non ne vogliono sentire parlare a 15, a 16, a 20 anni, a 23 anni. Dopodiché li trovi sempre che diminuiscono progressivamente. E hanno ragione, perché per lavorare devono per forza accettare l'integrazione in questo sistema, o altrimenti restano tagliati fuori. Quindi il discorso, fra l'altro, non è che lo si può ideologizzare, dire mi voglio sentire libero, ci deve andare a fare i conti per forza. Io tempo fa scrissi una lettera quando Rita era candidata, in cui le